Andiamo, vai, andiamo, chi è te? Attento, Luca, Luca, Luca. Andiamo, vai, andiamo, chi è te? Che mari? Ciao, Luca. Andiamo, vai, andiamo. Andiamo, vai, andiamo. Andiamo sempre bene noi. Ebbene, Giovanni, già accesa la stufa. Ieri sera l'ho accesa, oggi ancora no. Perché c'è caldo oggi. No, infatti non è ancora niente. A Marina ha messo la copertina elettrica di notte. Ha scaldato, guarda, anche troppo caldo c'era. E a che ora l'ha accesa? 8:30. Alle 9:30 ci siamo coricati. Ieri sera per la prima volta l'ho accesa. L'ho accesa verso le 4:30 e forse anche 5, non mi ricordo bene. E alle 10:30 ne l'ho spenta. E si stava bene, dai. Ma oggi ancora non l'ho accesa, perché si sta bene, dai. E per cui non l'ho accesa ancora, in caso mai c'è fresco, già l'accendo dopo. Ah, ma io sto parlando della copertina elettrica, non della stufa, ancora non l'abbiamo anche accesa. L'abbiamo pulita quest'anno e ancora non l'abbiamo fatta partire, guarnizione l'abbiamo cambiato. Tutta pulita dentro, tutta smontata e pulita, tutta, proprio tutta, devo dire, solo che fa un difetto, cioè c'è una cosa, adesso non mi ricordo il nome. Quando esce, già te lo dico, quando lo accendiamo. Però lì ci vuole il tecnico. Ah, ho capito. Ehi. Bah. Vabbè. Non stai facendo niente? No, questi giorni no, Giovanni. Zero completamente. Il tempo brutto, eh. Speriamo che sia buono questo tempo, almeno la settimana entrante, a fare qualche cosa a lui. Mi lasciate che te lo dico, aspetta. Mi sa che ha messo 26 gradi, non so quando, sa giovedì o venerdì. Perché c'è, cazzo, in campagna c'è un saccaccio di erba adesso, sta crescendo tutti i giorni, cazzo. Però se lo fa tempo bello non si può fare perché la terra è molle, capito? Allora, Giovanni, lunedì 10% di pioggia, non piove, 20 gradi, martedì 23 gradi, 10% di pioggia, mercoledì 26 gradi, 0% pioggia. Poi giovedì, tutta la settimana bello fa, Giomari. Ah, allora si può fare qualcosa, là. Vediamo un po' lunedì cosa esce fuori, là. Giomari, sì. Sei qua, Fufia. Luca, Flippe. Ma la vesicana oggi no. Tutti molti siamo. Ciao Mari, sì. E' qua, Fufia. Fufia, a vedete? Ciao Mari, sì. Sono qua. Giovanni, a me senti, città mercato dalle mie zone. Cosa c'hai? Mi senti, sì. Sì che ci sento. Andave, già funzionava allora, E io tu Torino che dobbiamo una commissione a fare compagnia. Importabile. Mangia dal cane dove va a prendere. È giusto che sia così. Alessandro, la città mercato. All'aerospito per delle crocchette per i cani, gli sticchi per il dentifricio, per i denti, per i cani, devo prendere la portorge. Quella nuova fai che è bello, qua ragazzi, hai visto quello che è vicino dove erano le poste prima? E quella lì l'hanno fatto rimodernato, bello veramente. Ma c'è un saccato di roba ben messo, capo. Vai lì! Ma stai parlando quello di mura che c'è di fronte a Mauris? Dove era prima? Cazzo, l'avevano spostato perché lo stavano mettendo apposta, l'hanno rinnovato e è aperto. Quando è che è aperto? Avanti l'hanno aperto. hanno passato anche i dolci a partire mattina. Ci ho fatto anche io avanti ieri, però di sera. E c'era ancora una tipa con il vassoio, ma io sono passato dritto, tosto che posso mangiare. Cioè, c'è tutto in quelle aurupie, c'è tutto, tutto, da là la testa. Hanno messo di tutto, sai cosa vuol dire? Poi ben messo, dico che io ho girato ed è veramente bello, non è come prima che faceva pietà. Adesso sì che è un aurupio veramente. Vai lì, cazzo, costa poco, vai e... Almeno lo vedi e ti rendi conto come l'hanno piazzato. Sì, ma io infatti anche quello di via Porto, se l'hanno chiuso, lo stanno aggiustando, lo facciano tutto al nuovo, Giomari. Infatti sto andando là, quello dove c'è all'Aerospin di fronte a Maurice. Vabbè, dai. La compagnia già ce l'hai, per cui va benissimo tu lì. Alla grande. Cappa di Rogero. Allora mettendo io, Giomari, come che voltate, se no te lo culo dare un venestrino, io non hai avuto mai, portatelo così tu, dai. Tu non hai avuto mai portato così. Bello e va bene, così che è un bobo. Dove sei adesso? Siamo arrivati quasi vicino alle Ruspi. Cazzo, è un bobo, cazzo. È un bobo, e già lo sai, io sono volante dire, pure arrivi, Siamo quasi arrivati, adesso fa due secondi, parcheggiamo. Va bene, dai, dai, acceso qua, dai. Fate pure, dai. Ok, dai, ci sentiamo, Giomari, che scendiamo, dai, ci sentiamo dopo. Capito, Giomari? Cos'è che ti ho capito? Ho detto, ci sentiamo dopo che stiamo entrando, siamo qua nel parcheggio. A tratti ti sento adesso, Andiamo, vai, andiamo, senti. Andiamo, vai, andiamo, mi. È vero. Andiamo, vai, andiamo, catta. E andiamo bene proprio. Vai, vai, cuocuomane. Ma cuocuomane sei tu? Secondo me cuocuomane qua ce n'è uno solo e sei tu. Ah, è vero. Salute. E beh, Natalie. Ieri ho fatto il pre-ricovero, mi devono operare, capito? Devo fare un paio di operazioni. I calcoli della cistifelle anche? Tutta me la tolgono la cistifelle, non sono solo i calcoli, no? Te la tolgono tutta, dice. E poi quell'ernia che mi è uscita, il prossimo mese mi faranno anche quella, penso. E anch'io la devo levare la cistifelle a Natalie. È un intervento del cacchio, mi ti fanno tre buchi e ti tolgono tutto. Perché tu soffri di mal di pancia, scariche? No, a me avevo questi calcoli in seguito alla pancreatite che ho avuto, capito? I mal di pancia ce li ho per la cosa, capito? Per la cestifellea, per questi calcoli che ho, e quindi me li tolgono. Lo so, anche a me la taglia devono le fare. Già una rima, mi aveva fatto burro il cofano, poi se ne sono dimenticati di me. Ma per carità. Mi hanno proprio, come si dice, messo da parte. Dove l'hai fatto tu all'ospedale? E allora? Tutto fatto, le visite, l'elettrocardiogramma, tutto. La visita dal l'equadome, tutto fatto, tutto. Al policlinico vai, hanno aperto la chirurgia da poco e i posti ci sono, sennò diventi macco. All'ospedale, guarda, ci sono liste d'attesa interminabili, mi ha detto il mio dottore, a non provarci neanche all'ospedale. Vabbè, diciamo che avevo qualche incozzo anche là, tramite un amico, invece, manco un ghisso. Poi Gianni conosceva il chirurgo proprio, nulla, non ho pensato niente da fare, non so quanti mesi ha dovuto esitare per poterlo operare all'anca. Guarda, all'ospedale è un macello, poi adesso che ci sono questi contagi del Covid è ancora peggio. Lo so Natali, purtroppo siamo nella merda. Siamo nella merda. E me l'hanno scoperta questa calcolosi. Quando sono andato all'ospedale perché ero ricoverato per la pancreatite, capito? E quella lì mi ha scatenato anche il diabete. Perché il pancreas non funziona più e quindi insulina. Quanto ne stai facendo al giorno? 4? Sì, 4 iniezioni, però 4 unità la mattina, 4 a pranzo, poi 3 a cena e 6 di quella lenta. Che sto facendo? 4 iniezioni al giorno. Mamma, lo stesso sta. Come ce li ha le glicemie? Belle sono. Bisogna sapersi rigurare in chili, io già ce le ho buone. Mamma mangia dei truppi cazzati. Allora tirata la glicemia. Capito, io ho dimagrito un bemmi, quando ero ricoverato ho dimagrito 15 kg a peso mio. E già vi via, per carità, va. Un casino Natale, ti capisco, anche io ci soffro. Ti sto dicendo, quello che ho passato io manco al peggior nemico si augura, guarda. Sono sempre a durori, un peso, finché non mi pereggiano io macello. In più ero buzzendo in macchina di un amico e mi si dà l'ischernia, furughista di furia. Ho dovuto comprare il cinturino, sono andato da un ortopedico perché sennò non puoi camminare, che subito te ne esci. Vabbè, ascolta, ma dimmi una cosa Natali, ma l'antenna che mi ha tutto, che problemi aveva? Ma qua non riceveva, Io ho pensato perché era troppo in basso, io ho messo quell'antenna che avevo dalla macchina e ricevi tutto, a chi io ricevo tutto, che no, allora. Non lo so che problemi aveva. Qua non riceveva. Infatti a giustizia di Nocchi in basso non andava, poi in alta la cabiciuria. Ascolta a me, ma se stavo facendo quella dalla macchina? Sì, a quella della macchina per ricevere, l'ho attaccata al ricevitore, capito? Ho capito, ma arrivi bene. Cioè ti ascolto bene. Ma non sto usando quella con questo, no? Ho capito, ma ti ascolto bene uguale, anche se con gommino. Luca, mi senti? Quella lì la sto usando per il ricevitore solo, perché c'ho un ricevitore qua e l'ho attaccata lì. Sì, vabbè, dai Natali, che è tutto, sentiamo domani, dai, ok, ciao Natali, buona serata. Pertanto, buona continuazione, saluta la mamma tua, là. Ciao. Non sono da mamma, sono giù da 25, dai, grazie comunque. Ciao. Chi è che mi chiama? Avanti. Ehi, mi senti? Mi scopi? Chi sei? Tonino? Io sono Isai. Sì che ti ascolto, forte e chiaro. Andare, dai, che tu sei una bomba qua. Sì, vabbè, siamo vicini. I figli d'aria siamo vicini, Tonino. Ma solo che arrivi a bomba. Positivo, dai, che mi sto cambiando che devo uscire, Tonino. Se no mi picchia la 25, dai, ci sentiamo, ciao. Va bene, ciao Lu, grazie, ci sentiamo, ciao ciao. Ehi, ciao Tony. Madre mia, la birra. Dopo che stava servendo, ho scelto di casa, non so, mi ha regalato il dato, assaggio la birra, l'ho chiamata, fa cosa mi dice, questa birra, dalla un altro, a me la porto birra fresca. Sì, ma è fresca, sì, per te è fresca, per me è calda. Se cortesia me la cambio, io non ti imbago birra calda del piccio, lasciala là. Alla navigata, bella croccante, vedi, così già va bene. Inutile che mi porti il birra e il bicchiere mi porti dopo. O me porti insieme, proprio a piscio, piscio, proprio si è scaldata sta assieme, già c'era caldo. Appigliate, è diventata ruia ruia, mia moglie, non dire nulla. Non ho capito perché mi va bene la birra a casa per fare per accontentare, ma stai scherzando, scusa. La metti, la metti da buono in frigo e la dai a qualche randaggio continentale di merda che viene qua per il scatto, va bene? Cazzo calda, calda cazzo di vane, cazzo di vane, vanno da sciolta di vane, gai. Quella della berruta, frey, muore, ghiaccia, allora, quella bisaglia devi lasciare, almeno più di mezz'ora in freezer, per essere bella fresca. Più di mezz'ora in freezer, almeno un 40 minuti la devo mettere in freezer per andare a bere la birra, per berla. Io faccio così, io questo qua, prima metto in freezer, poi la tolgo, ma è più frigo normale. Quando la prendo è bella croccante, capito? Bella croccante. Fredda fredda, proprio ghiacciata ghiacciata, no, perché fa male, fa male lo stomaco, di quasi male, però croccante, diciamo, come piace a noi, diciamo, là, già va bene. E la nuova crebbia. Vabbè, una se ti bevi, se vai a bere una bella bottiglia di bella fresca, ti sarebbe di bella fresca a vino, no? Cazzo di pisciu. Il vino ti puoi bere, to, ambiente, il vino sì, ma la birra ambiente non si vara, no? Il vino ambiente lo puoi bere anche in inverno, ma non in estate, eh? A me, boh, ti puoi stare scendere, o sono io vizioso, a me l'inverno va bene ambiente, però l'estate deve essere leggermente un po' freschino, non molto, e se no va via il sapore del vino, capito? Allora, il vino fresco deve essere solo quello frizzantino, quello vino amabile, e basta. Però questi vini qua di cantina, questi vanno bevuti ambiente. C'è gente sì che lo mette in frigo per essere un po' più fresco, lo mette in frigo, ma di solito questi vini rossi, vini bianchi vanno bevuti così. Esatto, vabbè, a me frizzantino non è che mi piaccia molto frizzantino, forse mi ha giubilato in preghiera, non posso bere parisso, ma non... cerco di evitarlo frizzantino, capito? Mi ha fatto fare le bolline, l'ho fatto fare, buia. E comunque inverno il temperatura ambiente, diciamo, va bene il vino, dai. Va bene la cantina. Un marito è andato io e il mio vicino di campagna a pigliare vino là dietro, da che con capo si chiama, Stangoni. E c'era il proprietario che conosciamo, i giovani. Inizia a assaggiare, la domanda mi andando a. A sei gambe me ne vado io e il mio confinante. Io lo stesso eravamo, ma ti parlo di cazzo, te ne ma con bullurata bisogno io, di più di 20 anni, 22 anni fa, cazzo, ben bene, si va come a un treno, Mari. Allora tranquillo, com'è che me ne messo da via, cazzo da lui, che cacchi, mordi, cazzo, andava giù, andava, la massa che viene in varia. In collezione, in collezione si è andato, così è. Poi già lo sai, quando tu vai nel cantino, ti danno i bicchieri piccolini, no? Quando tu bevi i bicchieri piccolini, non ne bevi di più di quello grande, non hai compreso, che fai veloce. Noi meno male eravamo vicino, dunque dietro, e a coso è? A Segazzina Manna, là, e beh, già vicino. Siamo guai, se no ci siamo seduti a Domenichino, figurati. Io male, mi ricordo un paio di anni fa, eravamo nel periodo di Natale, mi ha fermato mio nipote, qualche amico, eravamo giù a Balsano, incomincia a bere vino, non so che era spumante, no, forse era spumante, una cavolera. Cazzo, alla bocca in mia zia, e poi in mia zia scendeva, sembrava acqua. Beh, dovevo andare a cena, mia suocera, pido la macchina, parcheggio, mai ho parcheggiato così bene quel giorno. La macchina bella parcheggiata, arrivo dentro a casa, entro a testa dentro la casa, incomincio a... Oh, fuori del capo sono uscito, fuori di testa. Sono andato direttamente nel bagno a casa dei Zerbetti, figurati. Ho preso, mi sono coricato, anzi, mi hanno coricato proprio a chiedere proprio a terra, figurati. Era così, E poi, quando ero su a Milano, siamo andati, ero già benzinato dalla mattina, che siamo usciti con questo amico mio, che mi ero già separato con mia moglie. E ho uscito con questo amico mio che abbiamo fatto un lavoro assieme. Beh, cazzo, da Romanzano bevendo a Sambuca, da Buglia a Vecchia Romagna, anche lui bevono così lì. Ah, io mi hanno dato fare compagnia, vabbè, tutto il masaco mi vende a Vecchia Romagna e Sambuca. Allora Musuri, andiamo a mangiare in trattoria, torra, vino, mezzo litro di vino, un litro di vino, era bello fatto dalla casa, come adesso Sambuca e Vecchia Romagna, cazzo, uvi, e dove cazzo, stavo bene, sì, io allegro là, però stavo bene, cazzo, arrivo a casa, a muoverti tutta la notte, Romari, tutta la notte, cazzo, mi ha passato luci. Cos'è, il cambio di temperatura, no? Il cambio del caldo al freddo, tutto quanto, capito? Io lo stesso, io mi sento che proprio, che sono strano, la faccio. Esco fuori a casa, me ne vado in un anno in campagna, mi metto direttamente anche se non sto vomitando, le dita e bocca e ci puoi scaricare un po' di roba. Poi tranquillo me vado dentro a casa e ciccia, e se no guai. E poi se la Sambuca in inverno, non c'è freddo, piace, no? Perché piace, io pure in inverno, già dormito uno o due Sambuche, ma alla fine è stomachevole, capito? È stomachevole, oh, perché ormai una assaggiata e basta, per carità. A me la cuoci, meno ne bevo, mi dove. Poi tu non mi piace. Tu non ci credi, secondo te bottiglio regato, Vecchia Romagna, whisky e cose, oh, tutto regato, fuori dal bar, perché non ne bevo, capito? Io qua a casa tengo filo verde, in inverno. Ma bevo qualche bicchierino in inverno, oppure in estate, bello croccante, mi ce l'ho anche qua giù, bello fresco. Ma altra roba, oh, meglio nulla. Il filo verde secondo me perché è più sano, capito? Quello fatto a casa. Quello che vendo, diciamo, tipo su lì, fra Rao e l'altro, mi fa scintare il stomaco, mi fa. Invece quello fatto in casa è più pulito, più raffinato, è più buono, dai. Già ce l'era il filo verde, quello che dove andavamo noi, già ce l'avevano fatto in casa, è buono buro. Buono pure era, Mari, lascia perdere che anche lì già lo fanno buono, cazzo. Ma di tutti i tipi lo facevano questo, anche le grappe con la mela, grappe con la vipera, grappe con la vipera, ma lì non hai, con la vipera dentro, mi, dentro la bottiglia, cazzo di altro, cazzo malarina, ira. Poi sono andato da un amico mio qui a Ottava, da un amico, figlia mi ha assaggiato, mandano chi, c'era mia figlia piccolina, c'era. Sono andato a farlo perché è un amico diciamo, là. E mi ha detto filo verde, mi fa zieto, e poi lo fa a limone, la moglie ci mette le cose del limone, oia, come l'acqua, ma sto scrivendo, mi fa zia nulla. Ma ci vedo un bel me, ma no poco, un bello bocco, quelli super ferro non mi ha fatto mai nulla. Poi è piaccio, è proprio il sapore del limone, cazzo, sentivi era forte, ma era così buono, pazzesco proprio, Ma vedo un bo. Arrivavo in macchina tranquillo, sereno, poi andavo a casa, parcheggiavo per un treno. E mia moglie ha detto, boh, strano, stai parcheggiando troppo bene questo periodo qua. Sarà il tempo, sarà, dicevo, compreso. No, io stesso basta, cazzo, io devo votare. Io la mattina quando uscivamo da casa, andavamo al bar, ci fermavamo prima di entrare al lavoro, caffè con Sambuca, vabbè, caffè con Sambuca, travagliavami. Cazzo, come sta un treno a Bull? A mezzogiorno andava in trattoria, caffè e Sambuca, e si lasciava l'ampulla lì, perché lo sappiamo che si puniva proprio la Sambuca a Bull. Dopo la travagliare già erano in mezzo ai gassi, mi ha freddo. Appunto, il freddo non è neanche sentito perché è già caldo. Oh, yeah. No. Abbiamo passato il video che anche da noi ci fanno dei controlli, meglio nulla. Io non vado a lavorare, non tocco nulla. 0.0, la mattina caffè, un altro caffè, non tocco nulla. Quando esco al lavoro, sì, con qualche bicchiere di birra, se magari trovo a te o qualche amico, ma posso anche bere, oppure a casa. Ma quando sto lavorando, 0.0, meglio nulla. da noi ti bloccano, ma tu neanche sei accorto, da noi dall'altro ti bloccano, ti fanno, ti controllano, eccetera, non compreso. Sì, ma quando vedo, allora, quando nel servizio, quando stavo facendo la guardia giurata, ero in questa villa, ma villa della Madonna, e c'era il custode lì, dormiva il custode pure lì, per aprire i cancelli, no? Allora mi diceva, ma no, aiuto, dovevo un bicchiere di grappa che faceva loro. E vabbè, là, mettilo. E ci mettevamo a parlare più o meno, passavamo un paio d'ore, poi lui alle 10 dopo chiudeva tutto e se ne andava a letto. Cazzo, io devo fiammezzare i giorni manzani, quindi. Cazzo, tutta la notte gli rende. Sì, allora cosa facevi? Ti mettevi il bocciolo in tasca, una pompetta, ogni tanto una succiata, così? No, no, un cazzo giocciato, lui me lo offriva al custode, il portenaio lì. Parlavamo un paio d'ore, ogni tanto un bicchierino. Da dove se ne andava a cuccare, dice, si andava tutto, io stavo lì tutta la notte, girando da una bella all'altra. Sì, ogni tanto si avvicinava e ciucciavi, così? No, e lo ciucciavo. No, ma lo fa lui da casa sua. Capito? Lui dopo a quell'ora, alle 9:30, 10, se ne andava a dormire, no? Era anziano questo qui, anziano, era già era grandetto come persona. Mi chiamava, io mamma, vieni, vieni. Allora mi offriva il bicchierino, no? Entrava alle 8 di sera. Alle 8 di sera fino alle 6:30 del mattino. Stavano se girando così, invece bello grande la col terreno era. Ma facevi girare intorno al terreno così. Allora, bello grande, cazzo siete becchino, Mari, minimo, tipo cosa ti posso dire? Da casa mia fino a Santa Maria di Pisa. Cazzo, figurati, ma sono girato di quanto ho girato, o no? Ho quasi a metà. E beh, tutto lo dovevi girare, perché ci sono, allora in pratica lì ci sono gli orologi che dovevi timbrare, no? Quando facevi il giro dovevi timbrare, ogni ora dovevi fare il giro, capito? Ah, dunque c'è poco a scappare, già me l'ha detto l'amico che fa questo lavoro qua e l'avevo mandato, non so se a Fiume Santo, a Porto d'Ora, ogni tanto doveva o chiamare o doveva timbrare, ogni ora, anzi, doveva anche fare foto, figurati, per un rompimento di scatto. Poi eravamo nella villa di Moratti, lo stesso, un cazzo di villone della Madonna, roba di terreno c'era, la mazza che mi rivaria. Dovevate girare tutto assieme, poi, no, quello lì è proprio un lavoraccio, meglio nulla. Guarda, non ti preoccupare, quando io non stavo lavorando, ho fatto delle domande, avevo fatto anche raccomandato, non mi hai mai chiamato, mai, ma meno mai che mi hai mai chiamato, se no ero stato fuori di testa e sarei uscito. Guarda, allora ti dico una cosa, Mari, è un lavoraccio sì, è spesa mentalmente, però mentalmente è anche pericoloso pure, perché se cambia dove sei è un casino, è pericoloso, perché sei da solo, non ti mettono in coppia, ti mandano da solo a fare la ronda. E a me, guarda, il lavoro mi piaceva, solo che ci sono una massa di leccaculi di dentro, guarda, non ti dico quanta gente che leccaculo ha in capozona. Ogni lavoro non c'è nulla da fare, ogni lavoro ci sono sempre i soliti leccaculi, no, beh, nulla di va. Le caculi e i ruffiani, soprattutto i ruffiani, non hai compreso? Quello che i casini fanno loro, dicono non fanno gli altri, non hai capito? Anche a lui la stessa cosa, l'hai compreso? Un giorno ero stanco molto, Mari, ero stanco, ma lo sai stanco che non capivo se era giorno o notte. In pratica facevo... Adesso mi dici, dopo mi dici, facevo dalle 8 di sera entravo in servizio, no? Chiamavo la centrale, avvisare che ero già in servizio nel posto di lavoro. Dalle 8 fino alle 6 e mezza del mattino dell'indomani andavo a casa, mi bevevo il caffè, mi mangiavo qualche blusina, mi mettevo a svegliare, sdraiata a letto, riposavo un po', alle sette e mezza, mi chiamavano per aprire a fare l'apertura alla banca, fino alle 2:30, capito? Fino alle 2:30, dopo smontavo, andavo a casa, mangiavo, mi sdraiavo, e che cazzo di vita è, Richa? No, è una vitaccia, lo so. È una vitaccia e non è anche pagato bene, capito? Quello io lo so perché ho sentito molti amici, qualcuno di pensione, ma voglia, meglio nulla. È una vitaccia, non è vita da farlo. Meglio nulla. Un giorno, allora, il giorno, una notte, ero stanchissimo, stanco molto, lo stesso facendo quelle ore lì, dalla servizio di notte, e poi facevo il giorno alla banca. Rientro in servizio la sera, facevo la ronda normale tutto quanto, verso mezzanotte e l'una mi sono appioccato nella macchina, mi sono sdraiato, ho abbassato il sedile e te ne viene, non l'ho sentito, e te ne viene un altro collega, no? Ah, dormendo stai, ascolta, prima di tutto qua non ci devi neanche entrare nel mio posto di servizio. E tu cosa a casa ci fai dopo? Che tu sei tutto da un'altra zona, cosa a casa ci fai qua? Dopo l'ha detto al capozona, e là stava dormendo, e tu cosa a casa ci facevi? Gli ha detto il capozona. E gli ho detto a lui, a quello che era venuto, ed era un ex carabiniere pure questo qua. Gli ho detto, il giorno che torni a rientrare qua, entri qua, io non ti dico un cazzo, ti sparo alle gambe e basta. Già che era zoppo, era già Buffo Mari. Gli ho detto, il giorno che torni a entrare qua, o ti sento o non ti sento, ti sparo alle gambe, non me ne ha fatto un cazzo. Dal giorno non sei più venuto. E quelli sono i soliti, le caccuri e ruffiani, hai capito? Voglio fare carriera alla spalla degli altri, poi un ex carabiniere, peggio ancora, se ex volete anche tu pure, hai compreso? Chissà, ho affurato a fare qualche altra cosa, l'ha fatto. Sì, un ex carabiniere era, ma era un culione, era così a cazzo. Gli ho detto, il giorno che ti torno a trovare dentro qua, dove sono io, nella mia impostazione, verrà così a cazzo di vostro io la giudizio. Verrai, dal giorno non c'è più venuto. Le persone vogliono fare carriera con le spalle degli altri, ruffiani, Buffo Mari, non c'è nulla da fare, perché lei comunque è un lavoraccio. Manuel, è un lavoraccio, io mi amici e Uia, per carità, c'è un amico in pensione, è un anno in pensione, questo qua, delle altre volte, lo conosce, non mi ricordo il nome, come capo si chiama, fa anche le commedie questo qua, è Renato, non è possibile più, sopportando ormai, come vediamo un paio d'anni, andattini e il lavoro lo trovi, io meglio nulla. Ero lavorato, ma mai non mi hai chiamato, ma vai, meno male. Lo so, Mari, lo so. Io quando sono entrato che mi avevano chiamato, perché prima lavoravo già, lo sai, facevo posato di marmi, lavoravo nelle edilizie e tutto quanto. E sono entrato lì perché il lavoro era più leggero, non c'avevo problemi con la schiena e balle varie. E sono entrato qua e poi cazzo, no, guarda, il lavoro mi piaceva perché mi piaceva, solo che c'erano troppe rotture di coglioni, no? Non vivevi più cazzo servizi sul servizio, cazzo ero sempre in divisa, non riuscivo mai a casa, cazzo sempre in divisa io, per carità, mi stava venendo un cazzo esaurimento, mi stava venendo. No, è lavorato, anche la gente dice, ma quello fa nulla, fa nulla, fallo tu. Oggi non lo potevo fare, io c'ho un problema, A me quando la morfina a quell'ora mi viene il sonno, Vabbè, adesso uso macchinario e ciccia, ma quando non usavo macchinario, ma lo mettavo in macchina, andavo a lavorare, figurati. Oppure a casa, mangiando, lui crollavo, sono lento a nastro. Adesso uso l'apparecchio e ciccia, mi capito? Sto meglio, sto adesso, ma prima meglio nulla. Dunque, se io avrei fatto quel lavoro, me lo ventavo in servizio, me lo ventavo. Già quando ho fatto militare, quando avevo una torretta, ma ero sempre dormito, figurati. È un casino, a parte se non sei abituato che devi fare la notte, cazzo, è un bel problema, è un bel problema, cazzo, ti viene messo in conto di sonno, neanche te ne accorgi. Io una volta stavo facendo l'ispezione, ero dalle zone di, adesso non so se sei pratico, ma penso di no, nelle zone di Melate, nelle campagne praticamente, era tutto curve. Beh, mi stavo venendo questi colpi di sonno, per poco ci sono data la scalpata. Io non posso immaginare, ti sto dicendo, ti guarda, non ti racconto balle. Io quando non usavo la macchina, oppure quando non uso la macchina, per andare a lavorare, ho sai quante volte mi sono trovato fuori proprio in cunetta, qui a Marchetto, via Martini, ma una o due volte, proprio il sonno mi cadeva la vista a terra, proprio addormentato, perché ci veniva Morfeo proprio da un momento all'altro, la scusa, un po' di sonno, non dormi e così via, capito? Invece adesso la notte prendo, mi metto il macchinario e mi fa dormire bene, capito? E sono più tranquillo, ma prima meglio nulla, andate a lavorare, dormito, addormentato. C'era qualche collega che mi metteva le abbagliate scendendo dal porta a porta, oppure mi suonava e mi vedeva proprio andando in cunetta. Ho passato tre volte, più di una volta è capitato. Lo so, e poi non te ne accorgi, quando ti viene questo sonno che sei stanco, non te ne accorgi, Mari. A me me l'ha fatto perché ero stanco, che cazzo mi ha giubato roba di 15-16 ore al giorno facevo, ma ero scoppiato, stavo scoppiando, non ce la facevo più. Poi alla fine le ho detto, io non posso stare così. Cazzo, mi va 10 minuti. Le ho detto, io a fare la notte non ne ho problemi. Però, cazzo, non mi fate fare giorno e notte. O forse la lì o forse la notte, non so cosa bottono. Dopo una settimana mi hanno lasciato tranquillo, no? Facevo solo la notte e va bene. E dormivo tutta la mattina. Poi torna da capo, cazzo mi va zaneva supermercato, ghidac, ma ve la bellezza in culo. Allora, ti ho lasciato una settimana a riposo, e dopo è... e poi sono l'ottima, no, con quella patologia se vuoi io, la biocco ti vengo subito, la biocco proprio, zoom, neanche se accorgevi. Ma lo sai, io molte volte mi guardavo la televisione, mi sentivo russare, io stesso mi sentivo, proprio mi scalavo gli occhi così, non prendevo il panno. Oia. Beh, Manuè, mi hanno chiamato, una chiamata mia nipote, mi avevi dato un messaggio. A domani, se coincide, saluto tutti gli ascoltori e per me corretti, dai. A domani, Manuè. Yeah, ok, dai, ciao Mari, buonasera, buon tutto, dai, ce la riascoltiamo domani, che anche io adesso mi mangio qualcosa, mi prendo la pastiglia e mi accendo la televisione e a vedere se vedo qualche cosa. Ok, a domani, ciao. Ciao Mari, ciao.